Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il 28 e il 29 aprile il Papa andrà in Egitto per una visita che sarà storica. Noi siamo sicuri, proprio perché l'abbiamo incontrato, un breve e intenso incontro, che non potrà in questo viaggio non ricordarsi di Giulio ed unirsi alla nostra richiesta, una richiesta concreta, di verità, necessaria per avere la pace. E sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono passati 14 mesi da quando è stato ritrovato il corpo martoriato, massacrato del povero Giulio Regeni al Cairo, in Egitto, e oggi i suoi genitori, avete sentito la madre Paola, hanno tenuto questa conferenza stampa in Senato e hanno lanciato questo appello al Papa, che ad aprile sarà in Egitto, chiedendogli appunto di tornare anche lui su questo caso terribile e di chiedere la verità sulla morte di Giulio. Ci occuperemo di molte cose questa sera, ricomincia la settimana anche per Effetto Notte, e ci occuperemo naturalmente prima di tutto di questo attentato in Russia a San Pietroburgo, nella metropolitana, perché proprio in questo momento in cui la Russia torna centrale sullo scenario internazionale. Cercheremo di capire i motivi e anche quale possa essere la pista più fondata, anche se insomma è un po' troppo presto per dare ovviamente degli indizi precisi. I morti però sono molti, almeno 14, pare siano saliti a 14 da 10 che erano fino a un'ora fa, e poi molti i feriti. E naturalmente torneremo anche sull'ennesimo femminicidio, che in Italia non ci facciamo mai mancare, ormai è diventato un bollettino da routine, rutinario, e questo è la cosa orribile. E dopo anche la politica italiana, perché si sono chiuse le urne nei circoli del PD per le primarie. Poi cercheremo anche di capire cosa c'entrano i circoli con le primarie del 30 aprile. Tutto tra poco. Prima, lo sapete, il riassunto della giornata, e ancora prima di riassumervi la giornata vi ricordo che per interagire con Effetto Notte c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS per voi, per le vostre riflessioni, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, i titoli. L'attentato a San Pietroburgo, sono almeno 14 morti, decine feriti per l'ordigno esploso nella metropolitana della città russa. I ricercati sono due. Disoccupazione in Italia, cala il tasso a febbraio ma aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro. Partito Democratico, Renzi vince nel voto dei circoli ma è scontro sui numeri per Orlando. È la linea dell'ex presidente del Consiglio che è sbagliata, e dal CSM nuova accusa ad Emiliano sulla sua candidatura alle primarie. La violenza contro le donne, da lei, la donna di 47 anni uccisa, coltellate dal compagno proprio il giorno prima, il post su Facebook con la foto: noi due appassionatamente, ho il sole dentro, scriveva. L'omicidio di Budrio, ricercato un ex militare dell'Est, e riprendono le polemiche sulla legittima difesa. Colombia, due italiani dispersi dopo la valanga di fango. Scoperta sull'Alzheimer, l'origine della malattia è in un'area del cervello che regola l'umore. Un nuovo tassello svela un legame con la depressione. Partiamo quindi naturalmente dall'attentato in Russia. È di almeno 14 morti e 47 feriti il bilancio dell'esplosione nel primo pomeriggio di oggi nella metropolitana di San Pietroburgo. Le vittime, tutte nel vagone che era più vicino al luogo dove si trovava la bomba e ne ha subito gli effetti maggiori quando esplosa fra due stazioni. Un ordigno inesploso poi è stato invece trovato e disinnescato in un'altra stazione della metropolitana. La procura parla di attentato e indaga per terrorismo. Gli inquirenti escludono la pista di un kamikaze, nessun dubbio per il premier Medvedev è un atto terroristico. Il presidente Putin era presente in città e è stato informato, ma per lui al momento nessun cambio di agenda. La polizia russa sta cercando due persone. Nel frattempo è arrivata la solidarietà e il cordoglio a Putin, alla Russia, dal presidente della Repubblica Mattarella, al presidente del Consiglio Gentiloni. Anche Trump commenta: è stata una cosa terribile. E poi torneremo a parlarne, come vi dicevo, per capire come mai proprio in Russia, proprio in questo momento. In Italia adesso, con i dati sulla disoccupazione, ci sono numeri positivi, ma nel contempo cresce anche il numero di chi non cerca lavoro. Dati come sempre quelli di inizio mese, provvisori da parte dell'Istat, ma comunque indicativi sull'andamento del mondo del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso allora a febbraio all'11,5%, in calo di 0,3 punti percentuali su gennaio e di 0,2 punti rispetto a febbraio dello scorso anno. I disoccupati scendono sotto quota 3 milioni, per la precisione a 2.984.000, in diminuzione di 83.000 unità su gennaio e di 18.000 sul 2016. Il dato è legato principalmente parzialmente alla crescita degli inattivi, mentre gli occupati sono rimasti stabili. Buone notizie quindi per i giovani. L'Istituto di Statistica indica una flessione della disoccupazione nella fascia d'età 15-24 anni, con il relativo tasso che scende al 35,2%. Soddisfazione da parte del governo, cala la disoccupazione anche tra i giovani, commenta il presidente del Consiglio Gentiloni, che aggiunge: l'impegno per le riforme ottiene risultati. In 3 anni oltre 700.000 occupati in più, dice il ministro del Lavoro Poletti. Critiche però le opposizioni, il governo gioisce per dati che non ci sono. Luci ed ombre per il sindacato, no a facili entusiasmi, commenta la CISL. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per il governo intanto si avvicina il momento della presentazione del documento di economia e finanza. Sui conti pubblici il sentiero è stretto ma percorribile e non ci sono scorciatoie. Lo dice il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che domani parteciperà all'assemblea del gruppo PD alla Camera sul documento di programmazione di economia e finanza. L'incontro servirà a mettere a fuoco linee guida e interventi anche sulla manovra correttiva di primavera da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles. Il DEF potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri entro lunedì prossimo, mentre la manovra correttiva sarà varata entro Pasqua. Taglia la spesa con un'ulteriore razionalizzazione delle uscite e incremento delle entrate da alimentare con la lotta all'evasione IVA è la traccia usata dai tecnici per dar forma alla manovra di primavera. Si ragiona anche su un possibile aumento delle accise su tabacchi alcolici, mentre si escludono interventi sulla benzina. Manovra correttiva che, come detto dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, conterrà anche un pacchetto per lo sviluppo con misure ad hoc, come sgravi fiscali, per la ripresa delle aziende delle zone terremotate. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica con il Partito Democratico e l'ex presidente del Consiglio Renzi, che esulta per il risultato ottenuto nei circoli del PD. La vera sfida sarà nelle primarie, risponde il ministro e suo sfidante Orlando. Matteo Renzi è euforico per la vittoria nei circoli PD, Andrea Orlando piuttosto scettico. Conclusa la prima fase del congresso Dem, il segretario uscente primo con il 68% dei voti, Andrea Orlando secondo con il 25%, Michele Emiliano al 6%. Renzi parla di numeri impressionanti, ringrazia tutti e conclude con un viva la democrazia. Spingere ancora più di prima, dice l'ex segretario, tutti insieme, facendo tesoro degli errori. E però guerra sulle cifre da affluenza, contestare lo sfidante Orlando. Ormai ho messo in discussione il risultato, ho segnalato delle cose che secondo me non funzionano, che credo Renzi voglia affrontare come voglio affrontare io. Io per esempio, dove ho visto anomalie nel tesseramento, ho deciso di non presentare candidati, per dare un segnale politico. Non... Il dato finale parla di 266.000 votanti, che supera quello del precedente congresso PD, ma la partita per Orlando è ancora aperta. Il 30 aprile infatti spetterà ai simpatizzanti scegliere il segretario. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ritorniamo sulla morte di Giulio Regeni. Avete sentito all'inizio la conferenza stampa dei genitori questa mattina appunto in Senato. 14 mesi dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio, i suoi genitori hanno parlato al Senato. 3 febbraio 2016, 3 aprile 2017, 14 mesi sono passati dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria. Da allora è cominciato un lungo e tortuoso percorso alla ricerca della verità sugli autori e sulle cause della morte del ricercatore friulano, una verità che i genitori di Giulio non hanno mai smesso di chiedere e di pretendere da quel lontano 3 aprile del 2016, quando per la prima volta parlarono pubblicamente. Continuiamo a confidare nelle istituzioni, ha detto Claudio. Claudio, papà di Giulio, che chiede giustizia ma anche segnali concreti come quelli nei confronti dell'Egitto, paese che, come ha detto il legale della famiglia, continua ad occultare prove importanti. Chiediamo, dice Claudio, che l'ambasciatore italiano non torni al Cairo e che gli altri paesi facciano altrettanto, mentre Paola, la mamma, rivolge un appello al Papa. Il 28 e il 29 aprile il Papa andrà in Egitto. Noi siamo sicuri che non potrà in questo viaggio non ricordarsi di Giulio ed unirsi alla nostra richiesta, una richiesta concreta, di verità, necessaria per avere la pace. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di nuovo parliamo della violenza contro le donne, vi dicevo ormai davvero un bollettino senza fine con l'ennesimo caso di femminicidio, questa volta a Caltagirone in provincia di Catania. Ha confessato il delitto ai carabinieri della compagnia di Caltagirone, ma non ha saputo spiegare il perché. Salvatore Pirronello, 53 anni, che ha ucciso con almeno 4 coltellate all'addome e al torace la sua convivente Patrizia Formica di 47 anni. La causa scatenante, forse un conflitto, lui voleva troncare la loro relazione, lei non accettava la fine del loro rapporto. Nella notte lui all'improvviso si è alzato dal letto, ha preso un grosso coltello e mentre la donna dormiva l'ha colpita e lei è morta dissanguata. Proprio il giorno prima su Facebook lei aveva postato una foto insieme a lui scrivendo: noi due appassionatamente, ho il sole dentro. E poi torneremo nel corso di questa puntata su questo ennesimo caso di femminicidio. Adesso all'estero, con la valanga di fango caduta in Colombia, stiamo portando avanti le ricerche, non ci sono novità rispetto a ieri, precisano fonti della Croce Rossa colombiana, su 4 stranieri, tra i quali 2 italiani che risultano dispersi dopo questa valanga che nella notte tra sabato e domenica ha travolto Mocoa. Nella zona non c'è energia, il servizio si sta ripristinando in queste ore tramite i generatori elettrici, fatto che dovrebbe agevolare le ricerche. Molte persone finora bloccate che non sono riuscite a mettersi in contatto ora potranno farlo, ha detto la Croce Rossa. Di nuovo in Italia con la cronaca, ancora aperte le ricerche dell'uomo che sabato sera ha ucciso a Budrio in Emilia Romagna un barista in un tentativo di rapina. Per ora è riuscito a far perdere le sue tracce Igor Vaklavic, l'ex militare russo sospettato di essere il killer di Davide Fabbri. Già ricercato per altri colpi in provincia di Ferrara, potrebbe essere stato lui sabato sera ad uccidere il barista 52enne che aveva reagito ad un tentativo di rapina. Igor, il russo, non sarebbe comunque l'unico ricercato. Inquirenti e investigatori stanno infatti seguendo anche altre piste. A Budrio, nel frattempo, la comunità si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Fra gli abitanti c'è paura e rabbia, anche se in paese fino a sabato non c'erano problemi legati alla criminalità, spiega il sindaco Giulio Pierini, ospite di Effetto Giorno. Lo dico anche se a poche ore di un fatto del genere, qui l'emergenza sicurezza non c'era e non c'è sostanzialmente. Le rapine qui da noi era diverso tempo che non se ne sentiva proprio parlare, ecco, non solo in calo, non se ne sentiva proprio parlare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il bimbo caduto in un pozzo ha lottato tra la vita e la morte per quasi 2 giorni, alla fine non ce l'ha fatta, è morto questo pomeriggio. Il bambino di 23 mesi caduto sabato sera in un pozzo profondo 9 metri a Velletri, vicino Roma, è deceduto per arresto cardiocircolatorio all'ospedale Bambin Gesù, dove era stato trasportato in condizioni disperate. Secondo quanto si è appreso del decesso del piccolo è stata informata anche la procura di Roma, perché non è escluso che vengano disposti nuovi accertamenti o che si possa ipotizzare responsabilità a carico di chi doveva sorvegliarlo. E poi questa scoperta dell'origine dell'Alzheimer: non è nell'area del cervello associata alla memoria che va cercato il responsabile del morbo, all'origine ci sarebbe invece la morte dei neuroni nell'area collegata anche ai disturbi dell'umore. A mettere a punto questa scoperta, che promette di rivoluzionare l'approccio alla malattia del secolo, uno studio italiano pubblicato su Network Communication. Solo in Italia l'Alzheimer colpisce circa 500.000 di persone e ben 47 milioni in tutto il mondo. Per chiudere, alleggeriamo un po' con il calcio. Vedo un Inter-Sampdoria 0-0. Giovanni Capuano, è vero? Sì, 0-0 quando siamo nel 27esimo minuto, partita che sta regalando diverse emozioni. Questa è l'ultima gara della 30esima giornata del campionato di Serie A, 0-0, ma pochi istanti fa la Sampdoria ha colpito un palo clamoroso con Quagliarella, un destro dai 25 metri, Handanovic battuto e palla che si è stampata sul palo, mentre al 9 minuto era stata l'Inter ad andare vicinissima al vantaggio, volata di Perisic sulla sinistra, cross a rientrare in mezzo, Banega di prima intenzione, miracolo di Viviano e poi Andreva che ha sbagliato il tap-in. Inter che fino al palo di Quagliarella aveva fatto la partita, Inter che questa sera ha assolutamente bisogno di vincere per restare attaccata al treno della Champions e per staccare il Milan a 2 settimane dal derby. Sampdoria però che è una delle squadre più in forma in questo tratto di stagione e che anche questa sera sta giocando una buona partita. Nell'Inter Banega ha vinto il ballottaggio con João Mario e a centrocampo c'è Brozovic al posto di Kondogbia. La Sampdoria si è presentata a San Siro con 2 punte che sono Quagliarella e Schick. Chic, che è un giovane che interessa molto all'Inter, che l'anno prossimo potrebbe finire proprio nell'orbita dei nerazzurri. Sta arbitrando Celi, Icardi è appena stato impreciso di pochissimo con un colpo di testa, Icardi che questa sera festeggia la presenza numero 150 in Serie A. L'altro dato confortante per il calcio italiano è che nel fine settimana dei tanti spettatori in tanti stadi, questa sera a San Siro ce ne sono più di 45.000, che per essere una partita di lunedì sera è un dato comunque importante. 28esimo, 0-0 tra Inter e Sampdoria. A te la linea. E vediamo Giovanni Capuano se più tardi cambia il risultato. Insomma, ci sarà tempo, ci sentiremo dopo. Intanto adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, la viabilità, e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti per le vostre osservazioni, le vostre riflessioni. Pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure per WhatsApp ed SMS c'è il 349-238-6666. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ne avete appena sentito il riassunto delle notizie più importanti. Roberta Giordano sempre con voi, ma sapete che ogni tot vi ricordo almeno i titoli principali. Voi invece per le vostre interazioni qui a Effetto Notte avete la pagina Facebook del programma oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, poi ne parleremo di questa del PD e del voto nei circoli, cioè, più che circoli chiamerei bocciofile, ho visto un filmato, il più giovane aveva 70 anni, insomma, vabbè, così giusto per strappare un sorriso, ma poi ce ne occuperemo della politica. Prima di tutto però adesso andiamo in Russia e parleremo di questo attentato in metropolitana, di questa strage. Pare che i morti siano saliti ad almeno 14, sono decine i feriti, però vi ricordo quali sono tutti i fatti principali. Terrore a San Pietroburgo, in Russia una bomba nella metro, 14 morti, Putin era in città, è stato informato, per il momento non cambia la sua agenda, la pista islamica forse la più seguita, intanto caccia a due sospetti. Renzi per il PD stravince nel voto dei circoli, ma è scontro sui numeri e poi anche la notizia politica sulla Lega che sarà congresso a maggio. E poi l'ennesimo femminicidio, un uomo uccide la sua compagna nel sonno con le coltellate, da lei proprio il giorno prima, l'ultimo post con la loro foto, e lei che scrive: noi due appassionatamente ho il sole dentro. Omicidio di Budrio, ricercato un ex militare dell'est, e tornano le polemiche sulla legittima difesa. Scende all'11,5% la disoccupazione a febbraio in Italia, fra i giovani giù al 35,2%, stabili gli occupati, ma sono aumentati anche coloro che non cercano lavoro. E poi due italiani dispersi in Colombia dopo la valanga di fango, la Farnesina sta facendo degli accertamenti, e poi questa scoperta sull'origine dell'Alzheimer, ora ci sarebbero, c'è la probabilità di nuove cure per la malattia. E quindi partiamo ovviamente nell'approfondire gli argomenti dall'attentato di oggi a San Pietroburgo, con l'esplosione nel primo pomeriggio di oggi nella metropolitana della città russa tra le fermate di Sennaia Ploshchad e quella di Technologichensky Institute. Non so se questa la pronuncia, ma insomma non è importante, è importante quello che è successo con questo ordigno che è esploso in un vagone e ha provocato la morte di almeno 14 persone e decine di feriti. Poi c'era un altro ordigno invece inesploso che è stato disinnescato in un altro vagone della metropolitana perché poteva andare decisamente peggio. Gli inquirenti non hanno dubbi, è stato un attacco terroristico. Il presidente russo Putin era in città oggi a San Pietroburgo, è stato informato di quello che è successo, però al momento per lui non c'è stato nessun cambio di agenda. La polizia sta cercando due persone e sembra che la pista più battuta sia quella islamica. Intanto a San Pietroburgo sono stati dichiarati 3 giorni di lutto dal 4 al 6 aprile e il comitato investigativo della Federazione Russa ha fatto i complimenti al conducente oggi di questa metropolitana perché ha scelto di non fermarsi appena sentita l'esplosione, ma ha condotto il convoglio alla successiva fermata, così c'è stata la possibilità di salvare più vite. Naturalmente è arrivata la solidarietà e il cordoglio alla Russia, a Putin, alle famiglie delle vittime da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, dal Presidente del Consiglio Gentiloni, e anche Trump ha detto: è stata una cosa terribile, sta succedendo in tutto il mondo, assolutamente una cosa terribile. Allora, vorrei sentire che cosa, che sensazioni terribili appunto ha avuto chi l'ha vissuta da vicino questa cosa. Ed è uno studente italiano che si chiama Gabriel Mischiatti, studente di Erasmus a San Pietroburgo da 8 mesi. Vivi vicino alla stazione, Gabriel, vero? Di questa stazione dove c'è stata l'esplosione? Innanzitutto salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, praticamente nei nostri dormitori universitari sono situati praticamente a 2 minuti a piedi da dove è venuto il fatto di oggi. Senti, la sensazione che avete avuto, voi avete sentito l'esplosione, vi siete accorti di quello che è successo a 2 minuti di col vostro appartamento? Dell'esplosione non si è sentito molto perché le metropolitane russe sono molto profonde e sono spesso sotto il canale dell'acqua, quindi non si è sentito niente, però dopo un po' si è sentito un via e vai di polizia e ambulanza, e allora anche io insieme ad altri miei amici italiani siamo andati a controllare cosa era successo, e purtroppo ci hanno dato la notizia che si parlava di attacco terroristico, o addirittura si parlava di attacco da parte dei ceceni contro Putin. Senti, Gabriel, perché? Appunto perché un paio di settimane scorsa c'era stata una manifestazione delle opposizioni, no? Opposizioni a Putin. E quindi si è pensato subito a questa via. Poi si è pensato a Putin, siccome qua si dice che sia l'unico che abbia il coraggio di combattere quelli dell'ISIS. E quindi questo è il pensiero un po' di tutti. E allora tutti pensano che l'ISIS abbia voluto rivendicare questa cosa. Gabriel, tu hai detto da 8 mesi sei circa lì a studiare con l'Erasmus a San Pietroburgo? Sì, da settembre. Da settembre, come ti trovi? Ah, io, guardi, come dicevo ai miei amici italiani in Italia o ai miei compagni di università a Londra, che io non avrei mai pensato che una cosa potesse succedere così in Russia, perché da quando sono qua non ho visto un posto più sicuro di San Pietroburgo. E infatti ne parlavo anche con i miei amici russi, cioè qua c'è una prevenzione assurda su queste cose. Non a caso a me è successo che quando andavo in metropolitana per andare in palestra oppure ad allenamento, che avevo il borsone e mi controllavano la borsa dentro, cosa avevo. C'è proprio una prevenzione incredibile. Ma questo per tutti. Ogni volta ti succede che scendi in metropolitana? No, qualche volta così. No, ovviamente no, perché siamo 5 milioni di abitanti. Sarebbe un po' difficile. Molto trafficate le metropolitane, però diciamo che fanno severi controlli, però ovviamente non si può prevenire 5 milioni di abitanti. Quindi c'è molto controllo, ma nello stesso tempo tu hai sempre percepito una sensazione di tranquillità, di sicurezza? Senza dubbio, anzi mi sento più sicuro qua che a Trento, per farle capire. Tu sei di Trento. Esattamente. Ti senti più sicuro lì a San Pietroburgo. Senti, dopo quello che è successo, quindi pensi di rimanere, immagino, comunque? Sono abbastanza costretto, però il fatto che mi ha colpito molto di oggi è il fatto che anche la polizia sembrava tranquillissima di quello che fosse successo. E ovviamente molte persone che erano là, c'erano molte persone, cioè mamme o parenti delle vittime, ed erano molto scossi, però dopo un paio di ore siamo usciti un attimo a vedere com'è la situazione e sembra come se nulla fosse successo, tutti per strada, e questo secondo me è anche un segnale forte per far capire che possono fare quello che vogliono, ma il popolo russo non si ferma. E tu, conoscendolo un po' il popolo russo in questi mesi, hai questa sensazione quindi che loro, diciamo, reagiscono piuttosto con sangue freddo, si può dire? Certo, e questo ha lasciato basito anche me, perché parlavo con i miei amici italiani che se fosse stato in Italia di sicuro non si sarebbe visto nessuno per strada. Ed è una cosa che colpisce molto questa. Però allo stesso tempo puoi vedere come gli occhi, i volti delle persone siano cambiati, perché specialmente qua c'è molta etnia, non so, del Kazakistan, indiani o queste persone qua, e si vedeva proprio che erano spaventati loro stessi di come la gente li guardava per strada. Dici che riguardava magari con diffidenza, con sospetto, ingiustificati, perché evidentemente non è che ognuno che ha un volto da straniero deve essere colpevolizzato. Gabriel, io ti auguro di poter continuare a stare lì tranquillamente con la stessa sensazione di tranquillità e di serenità che hai avuto sinora. Grazie Gabriel Mischiatti e buono studio. Ciao Gabriel. Grazie mille a lei, buona serata. Ciao, grazie. Adesso invece Vorrei chiedere a Antonella Scott del Sole 24 Ore, nostra Antonella, ciao. Buonasera, ciao. Antonella, quindi uno si chiede come mai in questo momento proprio in Russia, proprio a San Pietroburgo, certamente bisogna dire che è un momento, un lungo momento in cui la Russia ha ricominciato a essere al centro dello scacchiere internazionale, no? In Siria, sì. L'intervento in Siria, le tensioni politiche anche all'interno, ricordava prima Gabriel le manifestazioni dell'opposizione nei giorni scorsi, e poi la lotta all'ISIS che sembra abbastanza consistente. Certamente sì, il pensiero che viene più facile avere è che questa sia stata proprio una vendetta che peraltro l'ISIS aveva già più volte in tutti questi mesi, da quando la Russia ha avviato questo il suo intervento in Siria, più e più volte sono arrivate minacce di quella che sarebbe di ritorsioni, di comunque una vendetta contro l'intervento dei russi, che tra l'altro appunto sono andati a combattere i vari gruppi ribelli che hanno preso in rivolta contro Assad, e tra cui ci sono proprio anche integralisti, fondamentalisti islamici venuti dal Caucaso, anzi spesso Mosca ha dato questa come la vera ragione, la prima ragione dell'intervento, di tenere a bada quelli che sono terroristi, che si teme possano ritornare poi, e sono però terroristi, diciamo, nati, che vengono dal Caucaso, quindi da casa, tra virgolette. Quindi una vendetta, proprio l'altro giorno era circolava un, chiamiamolo così, manifesto dell'ISIS che ripeteva "bruceremo la Russia", quindi la prima ipotesi è certamente questa. Però, come dicevi, è comunque un momento molto delicato, perché proprio per queste proteste che hanno davvero colto di sorpresa il Cremlino il 26 marzo scorso, quando abbiamo visto manifestare persone in diverse città, in tantissime città. Ci ricordi i motivi, Antonella, di queste proteste interne? Sì, queste sono nate proprio da un appello di Alexei Navalny, che diciamo adesso appunto sta diventando sempre di più il volto più famoso dell'opposizione, e che ha capito che la rabbia contro la corruzione è forse la vera leva su cui può richiamare in piazza la gente, e quindi accrescere, rafforzare il sostegno all'opposizione, e soprattutto in un paese che è ancora in crisi, in pesante crisi economica, e cui soprattutto poi nelle regioni molto meno fortunate di Mosca e di Pietroburgo, la povertà ovviamente fa guardare a questi, appunto, queste denunce di corruzione, che in particolare si sono concentrate sulla figura del primo ministro Medvedev, fa presa, e Navalny è proprio riuscito a mobilitare soprattutto i giovani, che fino a due settimane fa non si pensava, sembravano quasi, erano stati un po' tacciati di essere come un po' apatici, di essere indifferenti sul piano politico. Ecco, questa il legame, io direi che il legame tra questo movimento e gli attentati di oggi a Pietroburgo lo escluderei. Quello che è però sicuramente vero è che adesso il Cremlino, che già appunto aveva probabilmente era alla ricerca di una risposta, di come reagire a questo che potrebbe essere il germoglio di una protesta che potrebbe crescere e diventare magari ben più pericolosa di quella, ricordiamo, dell'inverno del 2011, quando già c'erano state manifestazioni di protesta di segno diverso, più con uno stampo politico, nate da quelli che erano stati considerati dei brogli alle elezioni parlamentari, mentre invece queste che nascono da una rabbia verso la corruzione possono avere radici più profonde e rivelarsi più pericolose. Ecco, nel momento in cui il Cremlino era alla ricerca di una risposta, probabilmente comunque con l'intenzione di reprimere questo movimento, è chiaro che il ritorno del terrorismo gli dà ora una ragione in più per mobilitare il paese Contro anche le manifestazioni interne, quindi, alla no? Alla fine sì, perché se nel momento in cui il paese è in emergenza è di nuovo sotto nell'allarme terrorismo, come ormai non succedeva da diversi anni, se tu vai a manifestare e a quello che è il vero terrore di Putin, sempre di questa immagine di chi scuote la nave, ecco, diventi immediatamente un nemico del sistema, e quindi il potere si sente ancora più legittimato a reprimere il dissenso. C'è il rischio quindi di una svolta repressiva, dice un ascoltatore, Domenico, al di là dell'origine dell'ordigno, dice Putin, sì. Quali azioni intraprenderà? Credo che, come già dimostrato, non abbia mezze misure, insomma, quindi vedremo. Probabilmente sì, ci saranno sicuramente ancora più rafforzamento delle misure di sicurezza, questo è certo, ma molta meno, ancora meno tolleranza verso purtroppo qualunque forma di appunto di qualunque cosa che possa mettere a rischio la stabilità del sistema. Grazie Antonella Scotta, chiarissima. Ciao Antonella, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Ciao a voi. Ora direi di lasciarci per questa pausa, come sempre, relativa alla pubblicità, e poi parleremo di molti altri temi. Ci occuperemo in prima di tutto di politica, vero? Vari messaggi sulle primarie, il voto nei circoli del Partito Democratico, ma ne parliamo proprio tra pochi momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi. Abbiamo parlato dell'attentato a San Pietroburgo in Russia con Antonella Scott, esperta di Russia e paesi dell'est, e poi abbiamo raggiunto anche uno studente italiano, Gabriel, che vive da diversi mesi, sta studiando con l'Erasmus a San Pietroburgo, ci ha raccontato un po' le sue sensazioni di oggi, di quello che è successo, ma anche della sua sensazione di come si vive a San Pietroburgo e anche della capacità di controllo e, come vogliamo chiamarla, di freddezza o di pacatezza, insomma, dei russi. Adesso cambiamo tema, torniamo invece sulle cose italiche, sulla politica italiana, però ancora questo messaggio, ricordate i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, quello è il numero per WhatsApp ed SMS. Su Effetto Notte Francesco scrive: Matrice, a proposito dell'attentato in Russia, probabilmente da ricercare nel panislamismo caucasico, come diceva anche la nostra esperta, per nulla casuali, luogo e giorno, quelli dell'incontro fra Putin e il fedele Lukashenko, che è il presidente della Bielorussia. Bene, anche questa analisi di Francesco. Adesso però, prima di cambiare tema, come sempre, se avete acceso la radio non puntualmente alle 21, vi ricordo comunque i fatti principali. L'attentato a San Pietroburgo, sono almeno 14 morti, decine i feriti per l'ordigno esploso nella metropolitana della città russa, ricercate due persone. Disoccupazione in Italia, cala il tasso a febbraio ma aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro. Partito Democratico, ne parliamo adesso, con Renzi che vince nel voto dei circoli ma è scontro sui numeri. La violenza contro le donne, da lei, la donna di 47 anni uccisa a coltellate dal compagno proprio il giorno prima, il post su Facebook con la foto di loro, noi due appassionatamente, ho il sole dentro, scriveva. L'omicidio di Budrio, ho ricercato un ex militare dell'est, e riprendono le polemiche sulla legittima difesa. Colombia, due italiani dispersi dopo la valanga di fango e poi una scoperta sull'Alzheimer, l'origine della malattia è in un'area del cervello che regola l'umore. E la partita di Serie A, Inter-Sampdoria 1-0 per l'Inter per il momento. E occupiamoci adesso della corsa alla segreteria del Partito Democratico. Sapete che i tre principali candidati sono Renzi, Emiliano e Orlando. Si sono chiuse oggi le urne nei circoli e quindi si è fatto il conto dei voti degli iscritti al PD. Il dato finale parla di 266.726 votanti, ovvero il 59,29% dei 449.852 iscritti, un'affluenza superiore al precedente congresso. Renzi risulta il primo con il 68%, Andrea Orlando al secondo posto 25,42%, Michele Emiliano il 6,36%. Però c'è scontro su questi numeri, ma prima di tutto vorrei chiedere alla nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore, bentornata Emilia. Buonasera. Siccome non tutti sono politologi, ecco, vuoi spiegare così semplicemente, sinteticamente, se le primarie in realtà, no, per far votare i cittadini sono il 30 aprile, questi voti nei circoli che uno ha paragonato a delle bocciofile, dice dove il più giovane mi sembrava che avesse 70 anni, adesso al di là dell'umorismo, ci spieghi la differenza, perché prima questo voto nei circoli, nei vari circoli d'Italia? Ma formalmente il voto nei circoli serve solo a scremare le candidature, cioè vengono scelti i primi tre. In questo caso, tuttavia, erano già tre in partenza, infatti. Quindi diciamo che è stato meno utile. C'è stato un po' di incertezza fino alla fine sul fatto che Michele Emiliano potesse partecipare alle primarie del PD, perché un'altra regola è che chi non supera il 5% tra gli iscritti è fuori dalle primarie aperte. Però col 6,36 l'ha superato, è andato anche lui, quindi diciamo che questo conta tra gli iscritti, serve un po' a selezionare le candidature, immaginando che ce ne siano di più. In passato ce ne sono state anche 5-6, insomma. Quindi così, ma in realtà quello in un partito nato proprio con le primarie, no? L'idea veltroniana del partito aperto. Quello che conta è il voto delle primarie aperte, il voto del 30 aprile. Paradossalmente, se ammettiamo Emiliano dovesse vincere con il 52% le primarie del 30 aprile, sarebbe lui il nuovo segretario. Al di là di quello che sono stati questi il voto degli iscritti, perché poi in assemblea che deve conclamare il risultato vanno i delegati eletti con le liste alle primarie aperte. Quindi diciamo che è un esercizio più di selezione, ma nel partito che aveva in mente Veltroni, che ancora è basato su questo lo statuto, la cosa importante sono le primarie aperte. Sei stata chiarissima su questo, Emilia. Oggi poi parliamo del fatto perché ci sia questo scontro sui numeri, anche se comunque sia, se Renzi dice chi vince, gli altri lo devono accettare, Orlando dice la linea sbagliata, quella di Renzi, che bisogna cambiare, comunque quelle decisive saranno il 30 aprile, e quindi al di là di queste baruffe. Ma oggi da Salerno, dov'era, Massimo D'Alema ha detto: ormai il PD è diventato il partito di Renzi. Ho visto oggi sui giornali un appello di Cuffaro per un'alleanza col PD in Sicilia, quindi con Forza Italia. Dice: mi pare che quello è il partito nel quale molti non si possono più riconoscere. Così dice D'Alema, sì. Ma in realtà ha in parte ragione, nel senso che negli ultimi tre anni c'è stato un turnover, un ricambio molto alto di iscritti al PD. Questo è il dato interessante, che ha spinto anche Renzi, che è andato molto bene. Se si pensa che quattro anni fa ha preso il 46% dagli iscritti. E adesso il 68%. Un terzo, circa il 33% proprio, 35-33%, di nuovi iscritti che tre anni fa non c'erano, quindi una parte se ne sono andati anche prima della scissione, e c'è una generazione di nuovi renziani, per così dire, di gente che si è iscritta per la prima volta al partito oppure ha rinnovato la tessera dopo anni di disillusione. Quindi un pochino, per un terzo, c'è questo ricambio, quindi in un certo senso è diventato il partito di Renzi. Però insomma c'è anche, cosa rimane, il 70% di persone che erano già iscritte e che probabilmente si sono compattate intorno al segretario proprio per effetto paradossale delle continue critiche da parte di quelli che sono usciti. Quindi D'Alema vede solo una parte della verità. È diventato il partito di Renzi perché è stato il segretario e ha unito attorno alla sua leadership molti che già erano dentro, quindi è un po' un po'. Emilia, abbiamo ancora un minuto per spiegarci da parte tua questa nuova grana su Emiliano, che sappiamo magistrato in aspettativa, e secondo il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha violato il divieto per i magistrati di iscriversi ai partiti politici. Ci spieghi proprio in un minuto, poi torneremo a parlare. Sì, in realtà è una violazione che hanno fatto anche altri, a cominciare ad esempio dal ministro, dalla ministra Anna Finocchiaro, no? Però come dice, ha detto oggi il neopresidente dell'ANM Eugenio Albamonte, finora nessuno si era candidato addirittura a guidare un partito, no? Quindi diciamo che il contrasto è ancora più evidente. Mm-hmm. La cosa curiosa è che poi il processo nel CSM, il processo interno ovviamente non è una cosa che riguarda i nostri tribunali, avviene l'8 maggio, quindi a primarie avvenute. E quindi qualsiasi cosa ne venga fuori sarà un po' difficile. Sì, non incide, ma forse potrebbe invece costare Emiliano il suo ruolo di magistrato, perché il CSM potrebbe anche decidere di che non vada bene, farlo che mantenga. Ecco, bene, una volta. Aspettiamo a questo punto l'8 maggio ancora prima le primarie. Può essere interessante primarie. Al di là dei destini di Emiliano, insomma, chiarire un po' il rapporto, no, tra magistrati e politica, in questo senso. Come sempre. Grazie Emilia Patta, grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, buon lavoro e viabilità. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, procediamo con le notizie, sempre Roberta Giordano con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte per aderire, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Adesso, tra poco, parleremo dell'ennesimo caso di violenza contro le donne. Vi ricordo però molto velocemente i titoli principali di oggi, ma ricordatevi di accendere puntualmente alle 21. Allora, l'attentato a San Pietroburgo in Russia, oggi in metropolitana, con una bomba, 14 morti. Putin era in città, è stato informato. Per adesso non si hanno però reazioni da parte sua, nel senso che non è cambiata la sua agenda, e si segue però, sembra, più fortemente la pista islamica ed è caccia a due sospetti. Renzi, ne abbiamo appena parlato, nelle primarie dentro i circoli del Partito Democratico stravince nei circoli, ma è scontro sui numeri. Ma ci diceva Emilia Patta poco fa che insomma quello che conta saranno le primarie del 30 aprile. E poi questo femminicidio di cui parleremo tra pochissimo, l'omicidio di Budrio, è ricercato un ex militare dell'Est per l'omicidio del barista. E per quanto riguarda la partita in corso, posticipo di Serie A Inter-Sampdoria, per il momento conduce l'Inter 1-0. Per l'ennesima volta quindi ci troviamo a parlare di violenza contro le donne, in questo caso proprio quando lei, la donna, la vittima, pensava di essere all'apice della felicità. Lei, Patrizia Formica, di 47 anni, accoltellata nel sonno dal suo convivente Salvatore Pirronello, di 53 anni, nella loro casa di Caltagirone, in Sicilia, vicino Catania. Lei aveva scritto proprio il giorno prima un post con la foto di loro due su Facebook, aveva scritto: "Il sole dentro, le persone che amo sono accanto a me, può anche arrivare il diluvio, io mi sento al sicuro", aveva scritto. Dopo il delitto, l'uomo che l'ha coltellata, così si è alzato d'improvviso di notte, l'ha dato coltellate all'addome, al torace, e lei ha cercato di difendersi, ma insomma poi è morta dissanguata, e lui poi si è presentato ai carabinieri. I familiari della vittima dicono lei aveva diritto a essere felice, veniva già da una storia, da un matrimonio finito. E lui si è difeso dicendo: è stato un raptus, io la volevo lasciare, ma lei non accettava questa cosa. Insomma, ogni volta c'è qualche scusa buona. Comunque ne parliamo con Isabella Mirzagora, che è presidente della Società Italiana di Criminologia. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi. Senta, qualcuno ha detto: vabbè, ma non è il classico femminicidio, perché prima non ci sono stati racconti di violenze, di botte, eccetera. Però caso è che avviene sempre in modo unilaterale, cioè da parte dell'uomo nei confronti della donna, e poi sembrerebbe che di solito è perché le donne vogliono lasciare questi uomini e questi le perseguitano, le fanno stalking per mesi, per anni, e poi le uccidono. In questo caso invece era lei che forse ci voleva stare con lui. È come se molti uomini non sapessero gestire i rapporti con le donne. Com'è che così? Che cosa hanno nella testa? Beh, intanto certamente non tutte, non c'è una modalità, una criminogenesi unica. In generale rimane il fatto che sono gli uomini a dimostrare maggior dipendenza, questo in generale. Ci sono poi, come questo e non solo, casi, anche c'era stato un caso per esempio di un uomo che aveva ucciso la moglie per potersene andare con un'altra donna, quindi ci sono anche situazioni diverse. Forse che gli uomini abbiano meno attitudine, sempre in generale, sempre parlando in generale, magari a riflettere sui rapporti, sulle questioni sentimentali. Beh, questo credo che sia una cosa che si constata, però sempre in generale. Poi ricordiamoci anche una cosa: quando noi parliamo di come sono questi uomini, noi parliamo di uomini che hanno ucciso le donne, quindi comunque di un'estrema minoranza di uomini. E gli uomini che non uccidono le donne, che sono tutti gli altri, forse non sono così. Questo per fortuna, dottoressa Merzagola, anche se è vero che, per esempio, quando si parla di questi casi, arrivano anche messaggi di molti che la cosa da cui sono irritati è che se ne parli, dicono più ne parlate e più succederà, oppure basta, evidentemente le donne hanno provocato, hanno fatto, eccetera. Quindi ci sono anche delle reazioni, c'è una certa mentalità diffusa comunque, no? Anche senza arrivare all'atto estremo. Direi che si può escludere che uno decida di uccidere la propria partner o di uccidere chiunque, solo perché lo sente attraverso i media. Questo è da escludersi. I media hanno torti e invece meriti. I torti qualche volta sono di concentrarsi su degli episodi, dei fenomeni. Mi spiego, dopo la sciagurata vicenda di Cogne, pareva che in Italia fiorissero, diciamo così, i figlicidi, il che non è. Sono casi eccezionalissimi. Adesso si sottolineano i femicidi. Questo, diciamo, può essere un demerito, nel senso che forse si enfatizzano delle questioni dei fenomeni che sono estreme patologie del rapporto. Il merito è quello di sottolineare che, indipendentemente dal fatto che aumentino, diminuiscono, questo importa poco, è comunque uno scandalo, una vergogna, ma ce ne fosse uno solo, lo sarebbe. E quindi sottolineare che non si puniscono o disciplinano le donne o nessun altro in questo modo, che non c'è qualcuno che deve essere più forte, ecco, tutte queste cose sono invece meriti dei media. E comunque sicuramente uno non viene in mente solo perché lo vede alla televisione. Certo, questo è chiaro, questo per rispondere anche a molti che dicono basta parlarne perché altrimenti no, c'è l'effetto poi limitazione. Allora parliamone con equilibrio, questo sì. Occupiamoci della cosa invece che magari preoccuparci in modo scomposto. Grazie professoressa Isabella Merzagora, grazie, buona serata. Prego, buonasera. Oh, la partita come prosegue, il posticipo di Serie A, lo chiediamo a Giovanni Capuano. L'Inter in vantaggio, è vero? Eccoci Roberta, sì, siamo nell'intervallo, sta per cominciare il secondo tempo che comincerà nell'Inter con l'ingresso in campo di Kondogbia. Inter che è in vantaggio per 1-0, decide fin qui il gol di D'Ambrosio, segnato al 35esimo del primo tempo, un gol abbastanza fortunoso servito da Banega. D'Ambrosio ha calciato verso Viviano, la palla è stata sporcata da un difensore della Sampdoria, Berezinski, ed è diventata imparabile per il numero uno dei blu cerchiati, dunque Inter in vantaggio, ma Inter che ha sofferto molto le ripartenze della Sampdoria. Ti avevo già raccontato del palo colpito da Quagliarella al 25esimo con un destro dalla distanza. Negli ultimi istanti della prima frazione di gioco la Sampdoria ha colpito un altro palo, questa volta con Bruno Fernandes che ha sfruttato un errore difensivo di Medel e ha concluso a botta quasi sicura. Andanovic per la seconda volta è stato salvato dai legni. In mezzo c'è stato il gol di D'Ambrosio. L'Inter complessivamente non ha giocato male perché ha creato anche altre occasioni per riuscire a superare la resistenza dei blu cerchiati, però la partita è ancora assolutamente aperta. Secondo tempo che è iniziato da una quarantina di secondi, Inter che dovesse finire così in questo momento tornerebbe al quinto posto a pari punti con l'Atalanta, quota 58. Grazie Giovanni Capuano, e ricordo che domani poi c'è il derby a Roma-Lazio e quindi ci ricollegheremo con Giovanni Capuano, con Dario Ricci, insomma vedremo domani. Intanto pensiamo a dei brevi aggiornamenti con cui ci ritroveremo alle 22.